por la fantasía. Yo soy libre en el vestir, en el pensar, en el lavar la pipa mía. Marrón, rojo, diversidad, balanco rojo. Yo soy rebelde, no me curo de llenado, vivo como un gran señor. Yo soy rebelde, más sincero, no le espero que no nació un poquitore. La mia chitarra canta de mi fa, balando rock. Mi piace la velocità, son un frenético de jazz. Vorrei ballar perché se sono. Yo soy rebelde, no mi piace questo mondo que no con la fantasía. Yo soy rebelde en el vestir, en el pensar, en el nombre de la misma mía. Mago, mago de felicidad, balando rock. Sono un frenetico del jazz, vorrei ballare perché se torno. Io sono ribelle, non mi piace questo mondo che non con la fantasia. Io sono ribelle nel vestire, nel pensare, nel nomare la bimba mia. Ma sono un uomo di felicità, ballando rock. Ballando rock, ballando rock.